Capitolo 16. Strasburgo. 16 aprile 1530. L'esplodo dentro, senza riuscire a trattenere l'urlo che si mescola al suo. Il piacere squassa il corpo fino a torcermi come un ramo secco nel fuoco. Scende su di me, madida, l'onda nera dei capelli mi avvolge, l'odore degli umori sulla bocca, sulle mani, il seno contro il petto. Si stende accanto, bianca e stupenda. Ascolto il suo respiro rallentare. Mi prende la mano, in un gesto che ho imparato ad assecondare, e l'appoggia tra le cosce, a raccogliere, in una sola presa delicata, il sesso che ancora si contrae. Ursula è qualcosa che non proverò mai più. È melancolia, un'incisione nell'anima e sulla carne. Le travi del soffitto raccolgono lo sguardo immobile. Non ho bisogno di dirle nulla. Anche adesso sa tutto. Più chiaro e limpido di me. Hai deciso di partire con lui? A Hampden, su a nord. Hoffman dice che lassù si radunano i profughi dell'Olanda. Si preparano grandi cose. Si gira sul fianco, verso di me, concedendomi gli occhi brillanti. Cose per cui vale la pena morire? Cose per cui varrà la pena vivere? Il suo indice percorre il mio profilo storto. La barba rossa scende sul petto, si ferma su una cicatrice, poi sulla pancia. Tu vivrai. La guardo. Tu non sei come Hoffman, non ti aspetti niente. Hai negli occhi una sconfitta, disperata, ma non è la rassegnazione che ti affligge. È la morte. Già una volta hai scelto la vita. Annuisco, zitto, sperando che mi stupisca ancora. Sorride. Ogni essere segue il suo destino nel ciclo del mondo. Il tuo è vivere. Anche questo lo devo a te. Ma sai che io non verrò. È tristezza o commozione? Le parole mancano. Sospira, serena. Melancolia, così mi chiamava mio marito. Era un medico, un uomo coltissimo. Anche lui amava la vita, ma non come te. Lui ne amava i segreti. Voleva cogliere il mistero della natura, delle pietre, delle stelle. L'hanno bruciato per questo. Una moglie fedele forse avrebbe seguito la sua sorte. Io invece sono scappata. Ho scelto di sopravvivere. Mi accarezza il volto. Anche tu seguirai la tua stella.